La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Sappiamo che vivrà fino alla fine dei suoi giorni nel faro di Capo Finisterre, all'estremo nord della Spagna. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Tutti dicono il silenzio della natura, ma devo dire che i gabbiani fanno un casino, più di 10 televisori accesi, e sono veramente penetranti. Quando ero piccola, per me il mondo era diviso in due. Nel mio paesino umbro c'erano la torre e la casa rossa. In fondo al vicolo c'era la torre, coperta di rampicanti, faceva paura, e lì abitava nonna Santina, bigotta, digiunatrice, che aveva un pensiero fisso, il peccato, naturalmente sempre il peccato degli altri. Alle pareti della casa c'erano le Madonne addolorate col cuore trafitto da 7 spade che grondavano sangue e dei crocefissi secchi, lunghi, minacciosi. Dalle mura del vicolo gli altri gettavano immondizie nel torrente. Lei li spiava dietro le finestre e diceva «Gentaccia, gentaccia!» Non parlò mai con le donne del vicolo. Filava in chiesa col fazzoletto nero a testa bassa e non sapeva che superbi vanno all'inferno. La nonna Santina amava Dio e odiava gli uomini. Dopo la morte del nonno, nessun estraneo entrò in casa. Erano molte le razze di nemici della famiglia. Primo nemico, gli altri. Tutti gli altri. Erano sempre in agguato per strappare i segreti della casa. Gli altri volevano sapere cosa si cucinava, quanti soldi avevamo e se si andava d'accordo. Vivevano per impadronirsi di queste informazioni, che avrebbero poi usato per scopi misteriosi ai nostri danni. Con gli altri non bisognava mai parlare, e se si era costretti, non rivelare mai niente. Cani, cani, diceva la nonna. Когда затяжные дожди она льет. Ma dall'altra parte del paese era tutta un'altra cosa. In fondo al viale di Tigli c'era la Casa Rossa. Lì abitavano il nonno Quintilio e la nonna Siadora, che avevano deciso di vivere. Anarchici e bevitori davano feste da ballo e invece di pregare cantavano le romanze d'opera. La nonna Isadora non faceva il segno della croce, ma fiutava tabacco. Era una donna perduta. Leggeva romanzi e puntate invece di preghiere. Con quella razza di peccatori il demonio non aveva niente da fare. Le sue manacce nere, la sua coda aguzza, le riservava a quelli sommersi nella tristezza di rintocchi e candele. Nel grande specchio ovale lei si guardava come una ragazza, metteva profumi e si spogliava nuda, e l'ombra del vento giocava dietro il riflesso della sua vecchia bellezza. Per la notte indossava una veste di seta nera. Quando si sdraiava e piano, senza volermi addormentare, mi raccontava la storia del re degli ontani, quello che uccide i bambini a bordi delle foreste e ha un manto di sangue ed è un gran bell'uomo, rispettato da tutti. По лестничке шаткой спасения нет, лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Invece la nonna Santina, al posto delle fiabe, sebbene paurose, in quel paese umbro del dopoguerra distrutto dalle bombe, ci raccontava le malefatte dei nazisti e della gente morta sotto i bombardamenti, con dei particolari orripilanti di cui noi bambini andavamo pazzi. Però quando combinavamo qualcosa di grosso, cioè una bugia, no? Ci spaventava col giorno del giudizio, in cui tutto si sarebbe venuto a sapere. Freghi, le fate le cose malamente, se noi dopo il Signore vi fa via l'inferno, e quello è niente. La peggio cosa è che il giorno del giudizio arcontono tutto quel che avete fatto e vi sputaneno davanti a tutti gli uomini e le donne. E per punizione ci recitava le poesie di Jacopone da Todi. E sotto quelle Madonne doloranti, coi Cristi stecchiti, ci raccontava il dialogo fra l'anima e il corpo che si ricongiungono il giorno del giudizio, dove il corpo è terrorizzato e l'anima lo tratta malissimo, perché è tutta del corpo la colpa del peccato ed è per lui che saranno dannati entrambi. Fulgido esempio della schizofrenia cattolica anima-corpo. Ed ecco la voce di Jacopone che ci raggiungeva, tremanti, a noi piccoli candidati all'inferno, che avevamo magari rubato un dolce o dato uno schiaffo a nostro fratello. O corpo infracedato, E io so l'alma dolente. Levati a mantenente, casimeco dannato. L'agnello sta a trombare voce di gran paura. Opone a presentare senza nulla demura. Stavimi a predicare che non avesse paura. Male te crese allora quando fece il peccato. Levati, maladetto, che non puoi più morare. Nella fronte ne scritto tutto il nostro peccare. Quel che nascusi a letto volevamo operare o porasse mostrare. Vigente ogni uomo nato. E mio fratello, che si succhiava il pollice, invece leggeva questo pezzettino dello Struwwelpeter, questo manuale ottocentesco dell'educazione per i bambini. Dice la mamma: mio buon Corrado, per pochi istanti io me ne vado. Vo' che tu sia studioso e buono, non far disordine, non far frastuono. E guai se il pollice succhiar vorrai, in modo orribile te impentirai. Tu non l'aspetti, ma di soppiatto entrerà il sarto, tutto ad un tratto. Taglierà il pollice col forbicione come se panno fosse o cartone. La mamma appena la soglia tocca e zacche, il pollice è nella bocca. S'apre la porta ed il sartore entra a gran salti pien di furore. Col forbicione zigzag recide al bimbo i pollici, il bimbo stride. Invan che il sarto se n'è già andato col pollicione insanguinato. La mamma, attonita e sbigottita, vede Corrado senza due dita e quei due pollici, così tagliati, mai più a Corrado sono rispuntati. Dove c'era anche sottesa la minaccia per l'onanismo infantile, perché anche lì sicuramente sarebbe entrato qualche gran sartore e zac, mai più sarebbe rispuntato. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, il comico attore Alessandro Bergonzoni è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Ciao Alessandro. Ciao Barbara. Io credo, da attore di controllo, come sono io, l'attore di controllo è un attore che guarda e vede atterrare le altre persone, quindi sono ben felice di essere dentro un faro per poter illuminare. Qua il problema è del buio e della luce. Io ho fatto voto di vastità. Fare voto di vastità cosa significa? Significa amare il granché, il limite esente, essere cioè senza limiti. Io ho bisogno dell'invisibile, quindi dal tuo faro mi sembra finalmente di scorgere l'invisibile, l'infinito del verbo. Stai facendo uno spettacolo che si chiama Urge. Cosa urge per Consoni? Urge la grandezza, Barbara, non le manie di grandezza, quelle ce ne sono già tante. Urge una pista d'atterraggio più lunga, perché i concetti di vita, morte, pena, colpa, danno, vendetta sono dei concetti enormi, dei velivoli di 30-40 piani, e non basta una pista d'atterraggio di 10 metri, ci vogliono piste d'atterraggio di 40 chilometri, e cioè l'anima. Urge, necessita l'abbandono del poco, l'abbandono del così così, l'abbandono del vacuo. Dobbiamo essere maggiori. E l'amore in tutto questo? Oggi a chi interessa questa parola vilipesa? A chi interessa l'amore? Ai pubblicitari? Ai grandi fratelli? A chi interessa la parola? Ai cantanti che rovinano le colonne sonore? Dov'è l'amore? Ma l'amore non può essere visto finché è pubblicitario. Noi siamo mandati non al creatore, ma al creativo. Ci mandano alla pubblicità, dove moriamo. Allora dobbiamo riprenderci il senso delle parole. E questo lo fa la letteratura, la poesia. Il tuo faro deve illuminare. Ecco, forza Barbara, vacci dentro e dacci altri organi. Dobbiamo avere altri organi, come diceva Bach. Il tuo faro non è su una roccia, ma il tuo faro è su quella che io chiamo la grande nuvola del pensiero. Senti, ma com'è Bergonzoni innamorato? Bergonzoni innamorato è il Bergonzoni terzo, è il mio alter ego, c'è ego e alter ego e poi c'è Ugo e alter ego. Ecco, il mio alter ego è un'altra persona ancora, io sono abitato da Bergonzoni innamorato e lo vedo che va ai giardini, lo vedo che va in alto, lo vedo che va in acqua, lo vedo che vola. Ecco, quel Bergonzoni innamorato lì, ti devo dire, mi piace parecchio ed è molto amico mio, non lo vedo sempre però. Magnifico. Però mi abita, è uno dei miei abitanti, nelle riunioni di dominio di condominio, come fanno certi politici che non fanno le riunioni di condominio ma fanno le riunioni di dominio, ecco, bisognerebbe dire che nessuno domina, ma semplicemente noi siamo la cosa più potente. La differenza tra potere e potenza: il politico vuole il potere, l'uomo e l'amore vogliono la potenza, cioè l'energia. Ecco cosa c'è nel tuo faro: energia. Siamo troppo umani, dobbiamo diventare sovrumani, cara Barbara. Sovrumani. Sono felice. Grazie, grazie Alessandro. Qui Capitaneria di Porto, è in linea Antonella per Barbara Alberti. Pronto Antonella? Pronto. Allora, siamo qui davanti al Tribunale della Nebbia, mi dica. Niente, io ho da 7 anni che ho una relazione con una persona che apparentemente stravedeva per me, era fedele, era disponibile, era tutto all'inizio. La prima fase è stata di attenzioni a 360 gradi. Da parte mia poi c'è stata molta noia dopo, nella fase successiva, e ho tentato più volte di lasciarlo senza mai poi riuscirci definitivamente, perché fondamentalmente ho molto bisogno, come tante donne, di affetto, di amore, di un legame, insomma. E premetto che sono separata, questo era un compagno che ho avuto. E niente, improvvisamente mi rendo conto che questa persona cambia verso di me, ha cambiato il suo atteggiamento verso di me. Scopro un po' tramite Facebook, ma anche proprio lo vedo con i miei occhi, un'altra persona, e mi rendo conto che l'ho definito un narciso, ecco, io non un narciso un po' atipico, perché cioè non appare come un uomo bellissimo, così molto è più che altro una persona che piace molto alle donne per il fatto che le sa ascoltare, le sa aiutare, le sa, si prende cura di loro, insomma, diciamo, molto spesso sono persone bisognose, tra virgolette. C'è stato un momento in cui io lo volevo lasciare definitivamente, mi sono proprio allontanata completamente, cioè anche quel filo invisibile, non c'era più niente, e lui lì ovviamente ha probabilmente avuto qualcosa, non lo so. Lei ci aveva avuto questo periodo di noia, dopodiché vi siete rappattumati, diciamo, e poi sì, scopre che lui ha tutta una serie di piccole storie. Mi racconti un po' di queste piccole storie? Sì, allora, ecco, le storie sono la parte forse più interessante, perché uno pensa subito, sicuramente è un tradimento, però non è un tradimento fisico. Allora, lei dirà, sì, brava, lei come fa a saperlo? Infatti io la mano sul fuoco non ce la metto, però mi sento abbastanza certa di dirla al 90, cioè si tratta proprio di amori platonici, di condivisione in queste persone, per cui lui ha questo bisogno di aiutarle, è cosa che con me non può più fare. Con me lui adesso è se stesso, cioè i suoi umori, ci sono tutti i momenti di gioia, di depressione, chiamiamo così, di ansia, di copezze varie, no? Con me lui adesso non finge più, diciamo, no? Da narciso, non ha più bisogno di me nei suoi giochi di rispecchiamenti vari, no? Per cui lui con me è se stesso, io so. E si fa vedere brutto al naturale senza scrupoli, no? Così. Non so, non ha la voce impostata come aveva all'inizio, però lui ha bisogno di questo, no? E allora che cosa fa? Con me, io sono la sua redazione, con me facciamo i Natali insieme, le cene insieme, ci sentiamo 10 volte al giorno, non lo so, insomma, la relazione lui ce l'ha con me in questo senso. Però ci sono queste amicizie femminili, ovviamente, fatte di non lo so cosa, cioè io ho visto, appunto, qualcosina mi è arrivato e è stato come un lampo, perché appunto in questo supermercato così ho scoperto questi sguardi molto molto molto complici con questa commessa, e mi si è accesa una lampadina, e da lì, per quello che dico che è quasi 6 mesi che secondo me è iniziata la storia in definitiva, perché io la relazione tra l'altro va bene adesso, si è accesa anche, riaccese delle cose che non c'erano più, come l'aspetto, l'attrazione fisica, va proprio bene. Dopo lo sguardo della commessa? Non lo so, sì. Adesso non... Sì. Ma sì, probabilmente c'è stato, però continua, insomma, sono già passati 6-7 mesi. E quindi si è riaccesa artificialmente questo lumicino tra di voi. Quanti anni ha lei, Antonella? 47. Antonella, lei non sa ancora quanto è giovane. Ecco, non è, guardi, e anche ne avesse 90, io le direi, ci pensi bene, state scendendo nella tomba, anzi vi siete abituati, siete scesi giù nel lavello e pian pianino vi accontentate. Alessandro Pergonzoni ha detto una cosa meravigliosa, ha detto: io ho fatto il patto di vastità, Ovvero sia, perché accontentarsi di queste miserie? Perché lei mi racconta del tradimento di lui, ma lei Antonella l'aveva già tradito, nel senso che quando si annoiava con lui e non troncavate, quello era già un tradimento. Voglio dire, e quando lei dice non finge più con me, non imposta la voce, quindi prima era finto, prima era pure finto, quindi io non lo so, quello che lei mi racconta è l'antitesi dell'amore, è tutto ciò che l'amore non dovrebbe essere. E poi anche questo fatto meccanico, che si riaccende il desiderio quando si vede lo sguardo di interesse di un'altra persona. Siete una coppia, non siete degli amanti, non siete degli innamorati, siete due disgraziati che da soli probabilmente invece non sareste tali, perché magari da soli avreste ognuno una personalità, una vivacità. Io credo che vi stiate proprio distruggendo l'uno con l'altro, ma non una distruzione di quelle romantiche, voglio dire, in cui ci si distrugge veramente e rapidamente e eroicamente. È una piccola distruzione, è una specie di malattia invisibile che è entrata tra di voi ed è l'accontentarsi. Non bisogna accontentarsi. Faccia il patto di vastità, Antonella, la prego. Poi magari la vita è più stravagante di noi, per cui magari invece c'è ancora qualche tesoro tra di voi da scoprire, che d'un tratto si scoperchia e c'è questa grande luce che vi abbaglia entrambi, ma non così, non così. Ma lei che mi dice, Antonella, di tutto questo? Io lo sto delirando sulla sua vita. No, mi dica lei cosa ne pensa. No, sul fatto dell'accontentarsi sono d'accordo, però sa, è facile a dirlo. Poi io, ripeto, ci ho provato più volte. Adesso quasi va meglio adesso rispetto a... Ma vede, lei parla del suo amore come di un malato. L'amore non è un malato. Adesso va un po' meglio. Gli passa, la febbre si è abbassata, ma magari ci fosse la febbre. Guardi, lei non abbia paura della solitudine, perché lei non ha idea quanto sia fervida. È più di un amore e poi soprattutto mette nelle condizioni in cui ci si innamora. Emily Dickinson scrive: non sappiamo mai la nostra altezza finché non ci chiedono di alzarci. Allora, se fedeli al progetto, la nostra altezza tocca i cieli. Bisogna vedere qual era il progetto. Puoi lasciare il tuo messaggio nella bottiglia all'828 1111 o alla mail laguardiana@radio24.it. Nonna Santina, la nonna ultra religiosa che abitava nella torre, pregava sempre Dio di mandarle qualche prova terribile per poter partecipare anche lei alla passione della croce. E Dio lo esaudì. Il suo primo figlio nacque con due teste. Ci fu un po' di imbarazzo al momento del battesimo e al fine il prete impose al neonato il nome di Tancredi, che col suo ambiguo plurale risolveva ogni dubbio. Tancredi crebbe e crescendo le due teste diventavano sempre più diverse. Il Tancredi di destra era di tratti delicati, aveva gli occhi azzurri, era timido, parlava poco ma sorrideva spesso. Invece Tancredi di sinistra era di pelo nero, gli occhi accesi, duro e aggressivo, non gli piaceva essere comandato. E con la mano che gli spettava, la sinistra, mollava frequenti sberle al Tancredi di destra, che abbassava la testa mormorando «ti perdono». Tutti e due erano dispiaciutissimi di essere costretti ad indossare gli stessi abiti, perché avevano gusti diversi in tutto. Cercavano di rimediare con l'unica possibile differenziazione che il destino aveva concesso loro, ovvero mettendo cappelli diversi. Tra le due teste i rapporti non erano buoni. Tancredi sinistro si faceva continue beffe del destro, perché era pio e obbediente e diceva sempre «sì, mamma». Quando erano piccoli e nonna Santina, una volta che aveva rinunciato ad ammazzarli, li faceva inginocchiare per il rosario, il biondo rispondeva con trasporto, mentre il bruno si toccava il sesso e carezzava solo pensieri infernali. Tancredi il buono raccoglieva sulla mano destra le farfalle e in esse vedeva la perfezione del creato, ma abilmente l'altro Tancredi gliele strappava con la sinistra e gliele schiacciava sulla faccia. Ma per entrambi il fastidio maggiore restava quello di non potersi dissociare dalle azioni fisiche del fratello. Il destro digiunava per penitenza, mentre il sinistro si abbuffava senza dignità, dedito a qualsiasi piacere, purché non fosse spirituale. E mentre Tancredi il bruno ronfava ruttando nel sonno, il biondo non riusciva a dormire, soffrendo l'indigestione di quelle insane mangiate. Quando il sinistro faceva qualche cattiva azione, sebbene sconsigliato dal destro, l'uno come l'altro doveva poi sopportare le cinghiate di nonna Santina, date solo al cattivo nell'intenzione, ma entrambi nella realtà fisica. Ma il peggio accadde quando Tancredi l'incontinente prese a frequentare la sbrega, una robusta puttana nelle cui mani sapienti finivano i risparmi che Tancredi il casto accumulava per le elemosine. Из окон корочкой несет поджаристой за занавесками мелькания ру. Нелle notti di grevi amori che Tancredi il Bruno passava con la sbrega, l'altro si disperava, lacrimava e chiudeva gli occhi, cercando di non sentire cosa stava accadendo, assillato dal sospetto di possedere una sola anima in due. Ma alla fine di quelle violente sgroppate, anche al buono sfuggiva un urlo di godimento contro se stesso, contro la salvezza dello spirito, cui teneva più di ogni altra cosa. E mai una volta Tancredi di destra si ragnò con nessuno di questa sevizia. Mai una volta fece la spia a nonna Santina, mentre in malvagio lo costringeva a filar via zitto zitto verso la casa della sbrega, dove ogni volta si ripeteva lo scempio dell'innocenza. Ma quando la sbrega e il Tancredi di sinistra violarono la legge della natura, profanando ciò che non si deve profanare, facendo ciò che solo le streghe fanno coi diavoli nei sabba del mondo, Tancredi il biondo ebbe la premonizione di ciò che gli sarebbe toccato nell'aldilà, e nell'attimo di quel tremendo godimento che non poté impedirsi, ebbe una veridica visione dell'inferno e sentì con bruciante chiarezza il bastone di ferro rovente con cui Satana lo avrebbe penetrato, beffando in eterno quella colpa. E dalla paura si mise a urlare sanguinose minacce alla sbrega, che sghignazzava, contenta dei suoi peccati. Più tardi, Tancredi di destra cercò di purificare la carne infliggendosi delle torture, e senza avvertire il sinistro, che certamente non sarebbe stato d'accordo, si infilò uno spillone nella pancia d'un sol colpo per evitare che l'altro glielo impedisse. A coni в сумерка колышет гривами автобус новенькой спеши спеши. Tancredi il Bruno, cacciando un urlo, tirò via lo spillone e in preda a una collera infame cominciò a picchiare la testa del destro, finché, spinto dalla sua irrefrenabile ira, gli strinse la gola fino a strozzarlo. La testa bionda di Tancredi ciondolò senza vita, e Tancredi, l'altro, si rese conto solo allora, come in un brutto gioco, di aver ucciso la testa gemella. Per la prima volta nella sua duplice vita, Tancredi scoppiò in singhiozzi, senza che nonna Santina lo frustasse. Con tenerezza sorrese la testa morta, l'accarezzò e disse smarrito: «Damma dai, ipocrita, che fai finta!» Ma gli occhi dell'altro lo fissavano spenti. Tancredi, tenendo la testa con tutte e due le mani, ormai solo sue, cantò una mesta canzone di sonno, dopo aver chiuso gli occhi a quel fratello se stesso. Pochi istanti più tardi, quando la morte dell'altro arrivò fino al loro unico cuore, morì anche lui, rinunciando all'ultima bestemmia, che tanto il fratello non poteva sentirlo, né averne dispetto. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Qui Capitaneria di Porto. È in linea una certa Francesca che chiede di Barbara Alberti. Pronto? Pronto? Barbara? Sì. Senta, Barbara, sono sempre Francesca di Forlì. Ah, come no, ma lei, quella che il marito la tradiva con le russe e coi trans, ma lei aveva giurato che non mi avrebbe chiamato più perché non le serviva nulla. L'avevo così delusa, com'è che mi richiama? Perché uno crede che gli altri non servano, ma e poi invece, primo, sono un po' pentita di che l'altra volta forse sono stata un po' sgarbata. Beh, sì, e chiedo m'ha trattato scusa. Con uno straccio, diciamo, no, la verità. E chiedo scusa. Senta, posso parlare? Perché qui non c'è pace. Allora, ieri mattina mi chiama prestissimo questo nipote di cui non posso dire il nome perché poi magari si riconosce. Mi fa: zia, zia, tutto agitato, zia, zia, zia. E che è successo? Mia moglie è impazzita, abbiamo tre bambini piccoli. Mia moglie è impazzita, ho scoperto che chatta sulle online, si è innamorata, è scappata e mi ha lasciato con tre bambini qui a casa. E dice: allora tu mi devi fare un piacere, devi chiamare Renato Zero e farle parlare da Renato Zero. Dice: scusa, capisco che sono confuso, capisco che ti chiedo una cosa impossibile, però io devo parlare con Renato Zero. I veri Padre Pio oggi sono questi, Renato Zero, cioè l'immagine mediatica ha una tale potenza, ha sostituito i santini e le apparizioni. Una volta si aspettava che i santi apparissero. Uno adesso... andava alla Madonna del Carmelo a fare pellegrinaggio, adesso... Oppure da Padre Pio a farsi toccare, e adesso invece lui attribuisce a Renato Zero il potere divino di riportare questa, che è talmente stufa che l'ha mollato contro i bambini, e anche un po' incosciente, devo dire. Così. Ma scusi, ma poi perché lui crede che lei abbia il potere di evocare Renato Zero? Guardi, io lo chiedo a lei perché veramente... Perché è un'altra forma di divinità, perché anche lei evidentemente è un tramite per la divinità. Perché... No, è perché sai, io a casa un po' vengono tutti da me, qui nella famiglia, vengono tutti da me a chiedere consigli, perché dice che io sono una mente aperta, che io posso dare i consigli, e qua e là, su e giù. Ma sa forse che queste trasmissioni, tipo Posta per te, la di Filippi, così... Cioè, ormai hanno come snaturato, cioè, come lei giustamente dice, sono come dei santi. Mentre di andare a fare una volta se la fa il pellegrinaggio su per le montagne alla Madonna del Carmelo, vanno da questi. Cioè, ma come gli viene in mente che io chiamo Renato Zero per andare alla trasmissione così la moglie torna da lui? Ah, così testuale. Perché se le parla Renato Zero, lei tornerà. E come Dio, pensi un po' che valore ha una che torna perché gliel'ha detto Renato Zero, voglio dire, immagina il calore di quel letto per il fatto che l'ha detto lui. Renato Zero, poi la... No, che io poi tra l'altro, ma dica suo nipote però, Francesca, dica. Che tra l'altro queste sono le grandi, sono le abbaglianti fregature moderne, ma lo sa che quelli che vanno da De Filippi si lasciano tutti? Tutti quelli che andavano anche dal defunto Castagna, si ricorda? Tutti quelli che vanno a proclamare l'amore in televisione, è una legge, creda, scientifica. Dopo si lasciano tutti. Ma sì, perché lo fanno lì per esibizionismo. Non solo, ma no, ma perché proprio li distrugge. Perché c'è una forza nell'amore, ma anche nell'odio, che se dette si disperdono. Quindi loro vanno lì a disperdere tutto il loro patrimonio emotivo. Dopo la trasmissione si ritrovano truccati, svuotati. Vuoti. E non si possono come vedere come dei fantoccioni, più. Dei fantocci. Sì, e questo non si saprà, però, cioè voglio dire, ci sono delle statistiche sotterranee, su internet troverà qualcosa, si lasciano tutti, cioè c'è proprio un gruppo, non andate da De Filippi perché vi lascerete. Però senta, io guardi, credo che quella coppia non ha speranza, in ogni caso. Ma anch'io, ma scusi, ma una evidentemente si è stufata, e poi cos'è? La soluzione dei rapporti con tre bambini, ma povere creature. Se povere creature affidate uno che crede che crede in Renato Zero come un altro crede in Allah o in Gesù Cristo. Senta, io credo che questa generazione è persa, ma la tragedia sono i figli che sono il futuro. Ma questi figli con che modelli, con che valori nascono? Io sarò di provincia, ma la provincia però sono anche le radici del nostro paese, abbia pazienza. Ma questi ragazzi come vivono? In mezzo a dei genitori che non hanno niente, che sono delle banderuole, che la loro vita dovrebbe essere Renato Zero. Poveri, Renato Zero poi è un genio, con bravissimo. Tutto il rispetto, certo. Lui è bravissimo, ma lui ha talento, ha intelligenza. Cioè questo che non capisco, che dietro uno come Renato Zero, come esempio... Ma c'è talento, intelligenza, lavoro, fatica, applicazione. No, loro vedono solo l'esteriorità in baraccone. No, e c'è anche l'idea che gli altri devono fare qualcosa per loro, che sono bambini eterni, che sono bambini fino a 80 anni. Ah, brava. Che c'è sì. Questo diritto a non crescere. Questo questa diritto gliela rubo, gliela rubo. Demandare. Alberti, gliela rubo. Ma lei non ha bisogno, lei ha un talento naturale che talento, devo io rubare no, a lei. No. E però, quindi che farà però. Con suo nipote? Ma gli diede schiaffi. Mi fa pena, povera stella, proprio non capisce. Comunque, senta, Francesca. Insomma, guardi, qui abbiamo tanti argomenti. Sì, e la posso richiamare, Barbara? Certo. Allora mi dica di sì. No, ma si figuri, io guardi, lei mi mancava perché l'altra volta mi ha talmente trattato male, come lei sa. No, chi ci tratta male bene, però, diventa trattato. Il nostro padrone, perché ti mette una maledizione addosso che solo lui può toglierti. Ah. E quindi, ma molti fondano il loro successo su questo, sono questi famosi arroganti che passano per essere coraggiosi. Sono dei calcolatori. Quindi lei invece l'ha fatto spontaneamente, la ringrazio. Io sarò molto contenta se mi richiama e soprattutto se mi farà sapere che cosa è di quel cretino di suo nipote e di quelle tre povere creature. Le posso mandare un bacio? Ma come vuole, bacio, guardi. Bacio. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. La molestia sul lavoro è odiosa. Ha quella sfumatura di ricatto che mi manda ai matti. Il mio datore di lavoro fa delle battute, allude. Temo che sferri da un momento all'altro l'attacco decisivo e se lo fa, come posso fermarlo senza farmi licenziare? Cristiana. Beh, ti leggo un pezzo sull'argomento. È tratto da un mio libro che si chiama Il ritorno dei mariti, un romanzo del 2006. E magari dopo ti licenzia lo stesso, però almeno una bella soddisfazione te la sarai presa. È la storia di una donna, sui 40-45 anni, che fa la sceneggiatrice e il suo sogno sarebbe di fare le fiabe italiane di Calvino in TV. Ora, il copione è uno del secondo canale. Si chiama Rattoni e ha sempre il mal di testa. Credo perché è mafioso e ladro. E proprio per questo pensavo che fosse un travestimento del meraviglioso. Capita. Difatti, ieri mi chiama. Però manco si riesce a capire se le favole gli sono piaciute o no. Io insisto, su, me lo dica. Lui invece mi invita loscamente a cena. Accetto. Vado e scopro che le favole non gli sono piaciute per niente. Mi offre in cambio una fiction a puntate, turpe e già scritta. Se però vado un weekend con lui, così ne parliamo. Insomma, in cambio delle favole propone una bestialità e vorrebbe anche scopare. In modo che tutti vedano, faccio spensieratamente con la mano il gesto di fottere. Ah, ho capito, ne parliamo. Lui si gela, io a voce non bassa. Per chiarezza, se io gliela do, lei mi fa fare la fiction, no? Il cameriere sta lì a sentire maligno e io, grazie, non per la fiction, che lei non sa dove me la metto. Grazie perché me la chiede. Alla mia età mica succede tutti i giorni. Al tavolo accanto, conoscenti di Rattoni si bloccano per ascoltarci. Io con garbo, io gliela darei anche, sa, per quel che me ne importa. Certe volte mi pare che manco è mia, che me l'hanno imprestata. È perché quella cosa lì, ripeto il gesto, ormai tutto il ristorante ha smesso di mangiare e ci guarda. Quella cosa lì, weekend, come la chiama lei, ho difficoltà. Mica perché lei non mi piace. Qualcuno ride. Rattone impugna il coltello. Mi ucciderà? Bravo. Piantamelo in testa, mi innamorerei subito. E gli dico, è che di giorni mi diventa come un limone. E poi sa, qualche smagliatura. Il culo non è quel granché, tanto che sogno di rifarmelo. Io e lei, nudi, che ci diciamo? Ci vorrebbe un grande amore. Al cameriere, se lui fosse innamorato, magari. A Rattoni, ma lei, scusi, è innamorato? Seria, io credo nell'amore. Serissima, ma non si vergogna. Qui in Capitaneria di Porto. Come richiesto, la Maria delle Acciughe è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Maria, sei lì? Sì, certo, sono qui. Senti, allegrissima oggi. E io invece molto un po' arrabbiata con te perché hai fatto un'affermazione veramente inconsueta. L'altra perché? Volta, l'ultima volta che ci siamo parlati, mi hai detto... Ah, poi lui, parlavi dell'uomo delle acciughe, dicevi, ah, ma lui è maschilista e io vado pazza dei maschilisti. Ma mi spieghi cosa ci trovi di bello? Ah beh sì, oggi ancora di più. Oggi ancora di più perché lui è tornato l'uomo delle acciughe, anzi il maschio delle acciughe, e con lui ha portato tutto il suo maschilismo, che insomma ha dei lati meravigliosi. A parte che lui da vedere sembra un leone, quindi ha gli occhi color leone, la pelle che profuma di leone, i capelli color leone, poi ha una criniera in testa, un ciuffo in testa, molto dritto, che sembra un po' una criniera urbana. E con queste sue zampe sa fare delle cose meravigliose, cioè ti risolve dei problemi pratici come un vero maschio sa fare. Cosa fa con le zampe? Per esempio mi ha aggiustato delle tende in cucina, quindi lui è anche tappezziere, non è che vende solo le acciughe. Poi mi ha aggiustato una giacca con un'ingegnosità pazzesca. Ovvero come hai fatto? Con della colla, ha fatto una toppa, con della colla, una cosa bravissimo. Poi la cosa più sorprendente è che sa cucinare e ha cucinato per me senza voler nulla in cambio, solo lui ha voluto solo che io mangiassi le cose che lui mi aveva preparato. Perché di solito un uomo, secondo te, un uomo non maschilista quando cucina vuole qualcosa in cambio? Questo è tipico di un uomo gentile, voglio dire, le cose che ha fatto, gentile, operoso. Ma a parte eroticissimo ai fornelli. Ma come eroticissimo ai fornelli? Mi ha preparato delle finte ostriche, che sono dei crostini di pane fatti con un pochino di burro sopra, chiaramente sopra una delle sue acciughe squisite, e un po' di limone. E poi degli spaghetti con le vongole scappate, che sono fatti con un sugo di aglio, olio e pomodoro, con tanto prezzemolo dentro. E quindi lui... E com'è che scappano queste? No, perché ti dà l'idea, perché con il tanto prezzemolo, l'aglio, l'olio, il prezzemolo, hai l'idea che le vongole ci siano state, che se ne siano andate. Ah, quindi... E quindi lui mi ha servito un immaginario raffinato, però invece nella concretezza fatto di cose semplici, primitive. Quindi è una casalinga illusionista questo maschilista. E così mi ha sedotto completamente. Sono con le sue note di casalinga, di cuoca, così di bricoleur, di aggiustatore di cose domestiche, mi descrivi un maritino perfetto, insomma. Magari. Quindi questa, no, ma è la tua idea, tu sei molto originale, questa è la tua idea del maschilismo, insomma, uno che sta in casa e lavora come un pazzo e ti fa le vongole scappate. Perché io credevo cose più fosche, credevo che ti piacesse quando ti pigliava schiaffi oppure quando ti diceva stai zitta che c'è gente, le donne non devono parlare in pubblico, pensavo che queste fossero le cose che ti piacessero, invece no, le vongole scappate. Questa volta è fatto così, però chissà quali sorprese. Pensa che nel mio paese c'era una tale divisione quando ero piccola tra i maschi e le donne, tra le attività, che quando c'erano quegli uomini appunto che facevano le cose in casa come tu, dicevano è un po' donnino. Lui è un leone che va a caccia da acciughe, quindi è raro anche, no? Sì, questo è molto originale. Ti piacerebbe un stato di grazia perché è rarissimo, dura 2 o 3 ore di solito, non di più, no? Cioè quindi... un momento di grazia, vuoi dire? sì. E dopo le 2 o 3 ore che succede? E dopo arriva un messaggio schifoso, oppure adesso vediamo, te lo dico la prossima volta, non lo so, qualcosa di terribile. Bene. Mi sto aspettando. Maria delle Acciughe continua al prossimo numero. È arrivato un messaggio nella bottiglia che dice: io sono allegra, lui ha sempre il muso. Si sente importante solo se fa l'incazzato. Dice che lui è serio e io no. Se rido, mi guarda con rimprovero, finché passa la voglia anche a me. Beh, ti rispondo con un'orazione breve che voglio ciceronianamente intitolare Contra Musones. Musoni, disgrazia della famiglia umana, inventori dell'oscena calunnia risus abundat in ore stultorum. Quando è così facile arrendersi all'infelicità, mascherarla da stato ineluttabile. Musoni castiga gioie, che ignorate quanta tenera fatica, quanta delicata ingenuità richieda l'umor lieto. Voi credete che il sorriso fiorisca per caso e non per amorosa e tremendissima fatica. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.